Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Io sono Elena di Milano, ho fatto liceo linguistico e in quarta sono stata per 6 mesi in Argentina in scambio. Studio scienze internazionali in statale. Mi chiamo Mirko Sanna, sono andato in Germania e ho fatto liceo scientifico indirizzo linguistico a San Gavino Monreale, una provincia di ex provincia di Cagliari, Sardegna. Io studio adesso a Roma Tor Vergata alla facoltà di economia. Sono Giulia, vengo da Vicenza e ho fatto come Mirko un anno in Germania. Io studio lingue occidentali a Ca' Foscari a Venezia. Mi chiamo Federica. Ho studiato al liceo scientifico di Como. Sono stata per un anno in Finlandia, in quarta, e adesso faccio l'università. Mi chiamo Filippo e ho studiato per un anno negli Stati Uniti, a Pittsburgh, in Pennsylvania, e sono di Aosta io originariamente. Adesso studio comunicazione d'impresa alla IULM di Milano. Eccole qua le voci di alcuni dei 50 ragazzi che hanno studiato per un anno in scuole cinesi, norvegesi, brasiliane, indiane. Ragazzi che poi sono stati chiamati dall'Università Bicocca di Milano e dalla Fondazione Intercultura ad immaginare e raccontare la scuola che vorrebbero. Ecco cosa chiedono dalle parole di Susanna Mantovani, docente di pedagogia alla Bicocca. Chiedono un rapporto diverso con gli insegnanti, degli insegnanti più giovani, più rendendosi conto molto bene che gli insegnanti non sono valorizzati. Dicono che mentre non si può rendere obbligatoria l'esperienza interculturale per i ragazzi, dovrebbe essere obbligatoria un'esperienza interculturale per gli insegnanti, perché provino anche loro a essere stranieri in classe. Vogliono essere considerati come degli interlocutori e quindi avere una ragionata possibilità di scelta. Vogliono essere valutati rigorosamente, ma con dei criteri argomentati. Chiedono anche che la scuola si apra, non è il problema dello straniero a scuola, è la scuola che si deve aprire al mondo. Dicono che va bene studiare il passato, ma il passato deve servire a comprendere il presente. Diciamo che ci propongono un nuovo umanesimo. Quindi molti dei temi che vengono discussi nel dibattito sulla scuola li hanno affrontati, alcuni in modo anche molto originale, pensando anche a come finanziare la scuola, per esempio con degli stage obbligatori per tutti l'ultimo anno in aziende pubbliche o private che siano moderatamente pagati, non a loro ma alle scuole per finanziarle, solo un piccolo esempio. Quindi delle proposte anche di recupero di quello che va bene nella scuola italiana, ad esempio il rigore e l'approfondimento delle materie, la contestualizzazione delle materie, soprattutto di quelle umanistiche, mentre rilevano la debolezza dell'insegnamento delle scientifiche e l'assenza di tecnologie e di laboratori, e anche una certa equità della scuola italiana, perché dicono che in fondo la scuola superiore è una buona scuola per tutti, a differenza di altri paesi in cui lo è solo per un'elite. Questa dunque è la scuola che vorrebbero i ragazzi che hanno studiato all'estero per un anno. Ecco quali sono le differenze maggiori che hanno notato con la scuola italiana. La scuola è organizzata in modo abbastanza simile in realtà, nel senso che le classi sono fisse, non è per esempio come le scuole degli Stati Uniti che si cambia classe. Una delle differenze principali è il fatto che tutti portano un uniforme e che le classi sono molto più numerose ed è molto più comune avere elementari, medie e superiori tutte nello stesso complesso, soprattutto nei paesi piccoli come quello dove ero io. Nella mia classe alla scuola privata eravamo in 43, alla scuola pubblica le classi sono ancora più numerose. Nelle scuole argentine è molto comune che si facciano lavori di gruppo, anche cose che vanno un po' al di fuori da quello che può essere quello che facciamo noi qui. Questa è la cosa migliore secondo me. Ho trovato la Germania più organizzata e più preparata a formare un ragazzo come studente piuttosto che in Italia, dove il ragazzo si forma per concetti, per sapere tutta a memoria. In Germania, per esempio, si potranno scegliere le materie in preparazione dell'università. Quello che diceva un ragazzo era molto importante per un professore. Invece a noi in Italia non viene mai chiesta praticamente. La maggior parte delle volte dobbiamo ripetere quello che si studia. L'organizzazione è completamente diversa. Gli studenti possono scegliere le materie, hanno molte più attività extracurricolari, cose che in Italia purtroppo non si fanno o per mancanza di fondi o perché la scuola tende ad essere proprio scuola, banchi, professori e niente di più, insomma. Beh, per esempio il fatto di poter personalizzare il proprio curriculum di studi andando in una scuola rigorosamente pubblica, piuttosto grande, di 6.000 studenti, di cui la metà persone ispaniche o di colore. Grazie all'esperienza all'estero i ragazzi sono diventati degli osservatori privilegiati, possono confrontare insomma due diversi modelli di istruzione e individuare le maggiori pecche del sistema italiano, oltre a quello che invece in Italia funziona e che prima davano forse per scontato. Sicuramente le nostre scuole sono molto più organizzate rispetto alle loro, nel senso che lo studio delle materie è più strutturato e lasciato molto meno al caso quasi, direi. Purtroppo, anche se mi sembra brutto dirlo, alcuni insegnanti non sono preparati secondo me a insegnare, ma non perché non siano capaci loro, perché forse non hanno avuto la giusta educazione a loro volta. Da noi c'è la classe, invece in Germania non c'è una classe, ci sono vari corsi in cui tu cambi molto spesso le persone con cui stai. L'aspetto classe, diciamo che in Italia ti permette di creare delle amicizie molto forti che poi permangono per anni dopo la fine della scuola, e quello è molto positivo. Quello mi è mancato molto in Germania. I professori dovrebbero uscire un po' dagli schemi, nel senso dovrebbero evitare di correre dietro al programma, ma stare più dietro agli studenti, capire la classe che hanno davanti e non solo oggi bisogna fare questo, quindi bisogna correre, cominciamo subito. In Finlandia, vabbè, c'è molta più indipendenza in generale, quindi anche nei confronti dei figli, da parte dei genitori. Là addirittura ricevono un contributo mensile, c'è anche questo aspetto, quindi per loro è molto più semplice prendere e andare a vivere fuori di casa. Vabbè, a parte il fatto che noi siamo probabilmente l'ultimo paese europeo a livello di percentuale di PIL spesa per l'istruzione, e la Finlandia sicuramente spende molto di più, investe molto di più, perché ha capito ovviamente che se si vuole investire sul futuro di un paese bisogna investire sull'istruzione. Una caratteristica che secondo me è positiva della nostra scuola è quella del gruppo classe, perché comunque si cementano dei rapporti che diventano davvero duraturi, mentre magari in altre realtà, cambiando classe in ogni corso, uno alla fine conosce tutti in maniera un po' superficiale. Si chiama Daniela Gitto, insegna da 20 anni ed è all'Istituto Comprensivo Stefano D'Arrigo di Messina. È lei la docente dell'anno, ha infatti vinto il concorso dell'Associazione Nazionale Presidi e Microsoft Italia. Complimenti, lei grazie. È l'insegnante dell'anno. Grazie, molto gentile. Allora, ci racconta un po' che cosa ha inventato per meritare questo premio, questo riconoscimento. Ho preparato un lavoro con e per i miei alunni di prima elementare l'anno scorso, quest'anno sono in seconda. È una produzione in PowerPoint di un'antica filastrocca che però ho pensato di drammatizzare con i personaggi che i bambini amano tanto, Winnie Pooh e i suoi amici. E poi ho partecipato al concorso bandito dall'ANP, l'Associazione Nazionale Presidi, e mi sono ritrovata vincitrice. Ecco qua. Una bella soddisfazione. Senz'altro, una bella soddisfazione per me come docente. Ho dedicato questo premio ai miei alunni. Sono molto contenta per la scuola che rappresento, perché la nostra scuola è dotata di molti strumenti multimediali, abbiamo l'aula multimediale, nel nostro istituto comprensivo, si figuri, ci sono ben 11 LIM, cioè la lavagna interattiva multimediale, e una di queste appunto è nella mia classe, mi è stata dotata l'anno scorso in prima elementare, e con i miei alunni ho iniziato un percorso non soltanto linguistico ma anche di alfabetizzazione informatica. E questo è importante perché insomma si parla sempre di scuole del sud che restano indietro, di scuole del sud che non reggono il passo con quelle del nord, però mi pare di capire che la sua scuola sia al passo, diciamo, coi tempi. È una di quelle scuole all'occhiello della provincia di Messina e anche della Sicilia, speriamo diciamo di continuare su questa scia e di rappresentare al meglio la mia regione. In effetti quando io ho ricevuto il premio ho ringraziato diciamo chi mi ha supportato, ma sono felice di rappresentare oltre alla mia scuola, il mio paese, anche la mia regione. Grazie ad Alice Cason per aver raccolto le interviste sulla scuola che vorrei. È tutto, l'appuntamento è per sabato prossimo alle 12:45.